Oggi siamo in pochi ma buoni, oserei dire. Buonasera e benvenuti a questo incontro. Vi porto i saluti della direttrice che adesso non può essere presente, ma comunque vi saluta e vi ringrazia per questa occasione. Questa sera viene presentato il libro di Patrizia Garalli Rossi, Villa del Parco, un romanzo che a detta sua riguarda la terza età, ma ancora meglio si potrebbe dire che è un piccolo manuale per sopravvivere alla vecchiaia, con l'ausilio e l'utilizzo di diversi strumenti che possono riguardare l'amicizia e la generosità. Siamo qui non soltanto con l'autrice, ma anche con tre lettori d'eccezione che fanno parte dell'associazione Lettura ad Alta Voce. Mi preme sottolineare questo aspetto perché già la biblioteca ha iniziato una collaborazione insieme a voi e appunto abbiamo avuto l'opportunità le scorse settimane di iniziare un nuovo format della biblioteca prevedendo alcune letture di estratti significativi da libri scelti ad hoc per l'occasione, tra cui appunto abbiamo iniziato con Villa del Parco. Questi incontri poi proseguiranno e vi darò anche maggiori informazioni. Il primo giorno di primavera. Come buon auspicio. Esatto, sì. È vero che ho visto la data. Non ci avevo pensato, però è vero. Bello. Quindi prima di immergerci nella storia, colgo l'occasione per darvi qualche breve input riguardo alle prossime iniziative che verranno organizzate da noi. Ovviamente adesso ci fermiamo per il periodo pasquale, ma riprendiamo subito la prossima settimana. Avremo mercoledì il Sema Acquatico nella Poesia, questo in occasione della Giornata Mondiale sull'Acqua. All'interno di questa raccolta che verrà presentata dal curatore del libro, verranno presentate una serie di poesie prodotte da vari autori, sempre su questo tema fondamentale per noi, che è appunto l'acqua. Proseguiremo poi la settimana successiva, ossia martedì 9, con Andrea Zulaschi, i film di un cineasta scrittore. Questa iniziativa è nata in collaborazione con il Centro Audiovisivi, che è al piano di sopra, e con l'autore Alessandro Romano di questo volume, che presenterà le attività, la carriera professionale e la vita di questo regista polacco e le sue varie vicissitudini. Proseguiamo poi con i nostri incontri di lettura. Abbiamo il gruppo di lettura gestito dalla collega Alessia localmente, che verrà organizzato il giorno mercoledì 10 aprile alle 17, dove verrà letto da questo gruppo Il volo dell'altalena, la storia di questa docente che lavora nella provincia di Bolzano, ma siamo nel periodo del fascismo, delle opzioni, e quindi questo, diciamo, inciderà ovviamente sulla storia. Ultimo, non per importanza, è appunto la prossima iniziativa che organizzeremo probabilmente insieme a voi, delle letture ad alta voce. Il prossimo libro che abbiamo pensato di presentare è Cielo Nero di Giacomo Sartori. È un autore che poi verrà alla fine del prossimo mese per presentare un altro suo libro. Questo Cielo Nero tratta, diciamo, vi do giusto qualche dritta, di appunto Gianni Galeazzi nei suoi ultimi mesi di vita, nel momento in cui è stato incarcerato a Verona. E quindi sarà anche interessante poi vedere un po' come si formulerà, insomma, questo incontro successivo. Non mi resta che augurarvi una buona presentazione. Grazie. Una buona lettura e un buon ascolto per voi. Grazie. Prego. Grazie. Allora, penso che sia opportuno, e lo faccio con tanto piacere, ringraziare la Biblioteca Claudia Augusta per l'opportunità che mi offre, e quindi veramente grazie, grazie di cuore, e anche dire un poco qualcosa su di me, perché non sono così conosciuta come altri autori, no? Io sono stata un'insegnante universitaria di lingua spagnola. Mi sono dedicata allo studio del Settecento, dove l'illuminismo raggiunge con grande difficoltà la Spagna, dove ancora c'è l'Inquisizione, quindi pensiamo all'illuminismo francese o altri illuminismi. E mi sono dedicata a scrivere saggi e libri soprattutto sul teatro del Settecento. E ho sempre avuto il desiderio di scrivere di narrativa, scrivere romanzi e racconti, ma non l'ho mai fatto per una sorta quasi di reticenza morale, no? Mi sembrava di perdere il tempo in qualcosa che mi appassionava, e quel tempo sarebbe stato meglio dedicarlo ai miei alunni, a migliorare le mie competenze e a scrivere dei saggi. È anche vero che per fare carriera all'università devi scrivere dei saggi e non dei romanzi, e quindi c'era anche questa componente nella mia vita. Quando poi ho deciso a 62 anni di lasciare l'università con dimissioni spontanee, ossia proprio nessuno avrei potuto rimanere all'università fino a 70 anni, ma mi ero stancata dell'ambiente, non degli studenti, l'ambiente accademico non faceva più per me, perché negli anni è molto cambiato quell'ambiente, ho deciso appunto di dedicarmi finalmente alla narrativa. E ovviamente sono partita da ciò che conoscevo meglio, vale a dire la storia di Spagna, perché a me i romanzi storici piacciono molto, perché hanno sempre un duplice vantaggio. Ossia, se da una parte ti appassionano, ti intrigano, no? Gli intrecci, i personaggi, ti danno anche delle conoscenze nuove che magari appunto non hai, storiche, ambientali, politiche, e quindi secondo me un buon romanzo storico ti arricchisce molto, sotto vari aspetti. E naturalmente, conoscendo bene il Settecento spagnolo, a quello mi sono aggrappata, perché bisogna anche sapere quello che si dice storicamente, perché la fantasia può spaziare, però è ovvio che fino a un certo punto le date ti incatenano e che puoi fare dei salti. Quindi mi sono dedicata appunto al Settecento spagnolo, e in un primo romanzo che pubblicai su Amazon, Al Bivio, una scelta che un nobile deve fare fra il lealismo naturalmente nei confronti, la lealtà nei confronti alla monarchia, e l'offrire ospitalità a un gesuita che è rimasto in Spagna e se ne sarebbe dovuto invece andare, perché nel 67, 1767, Carlo III di Borbone, come molti altri sovrani europei, caccia dalla Spagna tutti i gesuiti, e che verranno in buona parte nella mia regione, perché erano le legazioni, ossia dominio papale. Questo gesuita rimane in Spagna, quindi quando il nobile si accorge che è rimasto in questo sotterraneo dove l'hanno diciamo ospitato i suoi figli a sua insaputa, è fortemente combattuto, perché se lo scoprono oltretutto passa dei guai. In realtà poi invece sarà il gesuita a fuggire e a toglierlo dall'imbarazzo, ma il nobile aveva già deciso di salvare questo povero esule. Quindi questo romanzo è apparso su Amazon, quindi non è cartaceo, no? Comunque, dopo quel romanzo mi sono dedicata, appunto sempre scrivendo sul Settecento spagnolo, a questo libro, La passione della ragione, che è stato un omaggio al mio venerato maestro. Ho avuto un grande maestro, il professor Rinaldo Froldi, è stato un conosciutissimo ispanista, gli devo tutto, quel po' di buono che ho fatto lo devo a lui, perché ha creduto in me, gli sarò grata a vita, vedete, ne parlo ancora adesso nonostante la mia età. E quella è la vita di Tomás de Iriarte, che è il rinnovatore della commedia barocca che porta alla commedia borghese in Spagna. Io mi ero occupata di lui nella mia tesi e ho fatto un romanzo sulla sua vita, sulla sua ultima opera, che è una celebrazione della donna, come deve essere una vera donna. Questo discorso mi dà l'occasione di dire che in quasi tutti i miei libri io cerco di esaltare il ruolo della donna. Questo accade poi nella il ritratto del corpo, dove appunto un libertino, siamo sempre nel Settecento in Spagna, a Madrid, si innamora del corpo che vede in un quadro nudo, e notare in Spagna non si potevano tenere nudi, in Spagna pochissimi quadri nudi, ha una Venere di Velázquez e la Maja desnuda di Goya, conosciutissima, perché l'Inquisizione vietava di tenerli. Quindi trova questo quadro, lo compra e si accorge però che il viso non appartiene al corpo, ma lui vuole quel corpo. Farà un lunghissimo viaggio sapendo che questa donna è in Francia, la ritroverà, e non vi spiegherò poi, chi lo leggerà saprà che cosa troverà e chi troverà, perché lui la vuole, sa riconoscerla fra mille, vuole solo quella donna lì, ma è sposato, ha famiglia a Madrid, ha lasciato la moglie, no? Beh, in questo suo percorso per arrivare in Francia conoscerà tante donne, e saranno proprio quelle donne a fargli capire che una donna, anche bellissima, non è solo un corpo, ma amore, generosità, abnegazione, intelligenza. Conoscerà la Lebrun, la Virginie Lebrun, che è stata una grande pittrice, vedrà che la donna non è solo un corpo, quindi rivaluterà la donna per come deve essere considerata, e quindi un po' in tutti i miei libri. Poi da ultimo, prima di questo, ho scritto anche Il volo della farfalla, che è un volumetto più piccolino, che anche qui rende omaggio a una grande donna, mia concittadina, che è Clotilde Tambroni, la quale ricoprì la cattedra di greco a Bologna ai primi dell'Ottocento, prima donna. E casualmente ancora una volta entrano nella storia i gesuiti, perché fu un gesuita alloggiato nella pensione della madre e del padre di Clotilde in una via di Bologna, in via Barberia Bologna, che mentre ascoltava il gesuita fare lezione ad un ragazzino per integrare la magra pensione che Carlo III aveva dato a questi poveri gesuiti espulsi e che pur dovevano vivere, faceva lezione lì in casa, il ragazzo non risponde a una domanda fatta da Manuela Ponte e risponde Clotilde, la quale di solito ascoltava sgranando i piselli, cucendo, e lei risponde perfettamente. E il gesuita rimane scioccato, dice: come fai, Clotilde? E risponde, dice: perché io mi segno, ascolto, poi la sera studio, dice: ma è così bello. E capisce che questa ragazza ha delle potenzialità meravigliose, convince la famiglia a farla studiare, famiglia che non voleva assolutamente che lei studiasse, mentre voleva che studiassero i fratelli. Quindi lei diventerà la prima, prendendo addirittura il posto di quello che è stato il suo maestro, che anche lui sale in cattedra, perché a Ponte è stato un grandissimo grecista in un momento in cui gli studi di greco erano poco valutati, erano valutati in Germania, ma in Italia, per esempio, non erano così valutati, prevalevano altri studi, il latino e non il greco. Quindi l'importanza di questa donna, unica, prima donna, insomma, a salire su una cattedra nell'Ateneo bolognese. Villa del Parco, ecco, invece, Villa del Parco, io penso un po', penso alla vecchiaia, no? E vi leggo quello che ho scritto, perché sinceramente ho fatto altre presentazioni e non vedo perché dovrei cambiare queste cose, visto che anche il pubblico cambia. Allora, la vecchiaia, da tempo immemorabile, è sempre stato un argomento di grande interesse. Basti pensare all'antichità classica. Platone la considera un'opportunità per accrescere le proprie virtù interiori rispetto all'incalzante declino fisico. Seneca, nel De brevitate vitae, pone l'accento sul come l'uomo decide di viverla, lasciandosi alle spalle i turbamenti giovanili. Cicerone, nel suo Cator Major de Senectute, confuta le critiche rivolte alla vecchiaia come decadimento e attenuarsi delle capacità intellettive. Ma attenzione, il teatro, e mi riferisco a Terenzio e Plauto, invece, mettono in ridicolo il personaggio del vecchio nelle loro commedie. Ecco che il teatro invece si mostra meno rispettoso. Di solito è il vecchio che vuol fare il galante, no? Con la ragazza e quindi ridicolizza, mette in burla la vecchiaia. Continuando fino ai nostri giorni, filosofi, letterati, psicologi, medici non hanno smesso di disquisirne, sfornando opinioni diverse, spesso in contraddizione tra loro, che vanno da un pessimismo leopardiano a un eccessivo ottimismo. E c'è persino chi, come l'antropologo Marco Chouin, arriva persino a negare che la vecchiaia esista nel suo libro Il tempo senza età del 2014, ove sostiene che i corpi si logorano, ma la soggettività resta in qualche modo fuori dal tempo, ragion per cui, secondo lui, tutti muoiono giovani. Allora io quando ho letto questo, ho detto, è un paradosso tremendo, ma come muoiono giovani? Ma è vero che se anche il contenente si logora, non ci vediamo più noi per tanti aspetti, dentro di noi facciamo fatica a sentirci vecchi, è così. Per quello moriamo giovani, solo per quello, perché se ci atteniamo al contenuto, al contenente, all'involucro, è chiaro che non siamo più giovani, no? Però dentro di noi c'è un qualcosa, questa soggettività, che rimane inalterata, anzi, semmai, secondo me, si accresce, si rende conto di qualcosa di cui anni prima non ci rendevamo conto, almeno a me succede, no? Di rendermi conto di aspetti miei, che dico, ma non posso, non sono così cambiato. Beh, c'erano, non c'erano, è l'esperienza, sono le conoscenze che si fanno, gli incontri belli, brutti della vita. Però sento una soggettività in me che è quella Patrizia di una volta. Chiamiamolo spirito, spiritualità, no? Per cui questo Marco non dice una cosa sensata, secondo me, anche se all'inizio mi sembrava un'eresia. Inutile ricordare inoltre che la vecchiaia è argomento di numerosi film, tra i più recenti La giovinezza di Paolo Sorrentino o La tenerezza di Gianni Amelio. Naturalmente ci sono anche molti romanzi che traggono ispirazione dalla vecchiaia. Per quanto mi riguarda, non avrei mai pensato che sarei arrivata a scrivere qualcosa sulla vecchiaia. Anche se, dato che mio marito era medico geriatra, in casa se ne parlava. E lo confesso, pensavo che fosse un tema poco adatto a un romanzo, di nessun interesse per chi è giovane e forse addirittura poco piacevole per chi non lo è più. Il fatto è che, per parlare francamente, non mi sentivo né mi vedevo affatto anziana, anche se ho sempre pensato che della nostra vecchiaia, a meno che non soffriamo di gravi patologie, se ne accorga più chi ci sta vicino, ci osserva, che noi stessi. Però, inaspettatamente, nel 2020, qualcosa di molto grave mi ha portato a riflettere. Era in corso l'epidemia di Covid e io a Bressanone, dove sono venuta a vivere per mia scelta 9 anni fa, ho dovuto fare i conti con la mia età cronologica e per la prima volta mi sono sentita vecchia, con la paura di finire come quei tanti anziani che morivano soli in ospedale senza nemmeno il conforto di una carezza dei loro cari, a causa del micidiale virus. Ero lontana 350 km da mio figlio ed ero consapevole che se mi fossi ammalata sarei potuta morire senza potergli dare un ultimo saluto. Insomma, per la prima volta ho dovuto ammettere la mia fragilità. Fare i conti con la propria fragilità è stato molto difficile per una persona come me, abituata a vivere sola e dal carattere piuttosto indipendente. Tuttavia, ancora una volta, la scrittura, la mia grande passione assieme alla lettura, è stata l'ancora a cui mi sono aggrappata per superare quel terribile momento. Così è nata in me l'idea di scrivere Villa del Parco e non ho avuto alcun dubbio nel dedicarla a tutti gli anziani ai quali il Covid ha tolto subdolamente la vita. E ho scritto così. Questo romanzo, frutto della mia fantasia, è dedicato a tutti gli anziani ai quali il coronavirus ha tolto in modo atroce la vita. A loro va la nostra gratitudine per tutto ciò che hanno fatto e il rimpianto per tutto ciò che ci avrebbero ancora generosamente donato. Il Covid è stata una brutta esperienza per tutti, giovani e anziani, ma se i primi possono almeno sperare di andare avanti, fare progetti di vita, molti vecchi hanno visto svanire il loro semplice e legittimo desiderio di godere ancora un poco di quanto avevano conquistato con tanti sacrifici e fatiche, dell'affetto dei figli e dei nipoti, se avevano la fortuna di averli. Se c'è una cosa che mi fa indignare nell'attuale società è il considerare che il vecchio debba per forza morire. Era vecchio, sento spesso commentare la scomparsa di un anziano, come se non fosse più una persona con i suoi desideri, le sue emozioni, la sua dignità per dirci. Purtroppo, quando si è giovani, è naturale pensare poco alla vecchiaia. Si è pieni di vita, assorbiti dal realizzare i propri sogni, e ci mancherebbe. Eppure, questo rimuovere la vecchiaia è, a mio parere, una tremenda trappola. Se la vita è un cammino fatto di tante tappe, che se abbiamo fortuna riusciamo ad attraversare indenni, bene, la terza età è l'ultima tappa, qualcosa a cui dovremmo arrivare equipaggiati, ossia muniti di tutto quanto ci può consentire di trascorrere nel miglior modo possibile, senza rinunciare ad essere felici o perlomeno sereni, perché tutti, indipendentemente dall'età, ne abbiamo il diritto. Spesso, invece, siamo noi anziani per primi a cercare di rimuovere la vecchiaia, ancorati ad un'idea estetica ed edonistica che ci porta a inseguire comportamenti ridicoli per non sembrare vecchi, ma al massimo giovanili. E vorrei dire un'altra cosa che è uscita proprio durante una mia presentazione. Io noto che molto spesso la persona di una certa età diventa quasi passiva, nel senso di non sono felice, va bene, però ho vissuto, ormai sono arrivato a questa età. No, non bisogna colpevolizzarsi. Io credo che nella vita, quando una persona si comporta bene, abbia diritto di cercare la propria felicità a qualsiasi età. Non dare per perduto. Tutti abbiamo diritto a cercarla, e quando la cerchiamo operando bene, Non è egoismo, non è che perché sia, ecco, perché vedo invece molti persone anziane che si, con un autolesionismo, no? Anche nell'offrirsi, come posso dire, al prossimo anche a scapito della propria salute, dei propri desideri che rimangono. No, non dobbiamo continuare a realizzare i nostri sogni, no? Non dico mica di essere egoisti, di non pensare al prossimo, ma dobbiamo pensare a vivere bene senza questi sensi di colpa. Io spesso vedo persone anziane che, se non vanno dal nipote, si sentono in colpa, ma possiamo anche avere qualcosa da realizzare ancora noi, no? Mi potrete dire: tu non hai nipoti, come mi dice mio figlio, mamma, tu non ce li hai, dici così per quello. No, io sono convinta che dobbiamo comunque mantenere una nostra indipendenza, no? Nei nostri sogni, nei nostri desideri, senza considerare che ormai siamo finiti. Perché? Assolutamente. Questo vittimismo dell'anziano non mi piace per niente. Quando lo vedo è deprecabile. Bisogna cercare di essere felici, perché già ci pensa la vita e l'età a darci le mazzate, brava. È vero? Quindi cerchiamo di essere felici senza sensi di colpa. Esistono diversi sinonimi della parola vecchiaia: anzianità, senescenza, vetustà e più recentemente terza età, che forse per attutirne l'impatto è stata suddivisa in periodi. Inizialmente 65 anni segnavano l'ingresso di una persona nella terza età, ma successivamente la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia ha aggiornato il concetto di anzianità a 75 anni, tenendo conto dell'allungamento delle speranze di vita alla nascita, che in Italia sono 85 anni per le donne e 82 per gli uomini. Eppure, anche se nella nostra società essere anziano purtroppo comporta spesso un mancato riconoscimento umano e sociale, io trovo che vecchio non sia affatto una brutta parola. Pensate a quella bella canzone che mi piace tanto di Renato Zero, no? Spalle al muro, il vecchio, diranno che sei vecchio, del 91, che fece furore, non vinse un festival di Sanremo, ma lo stesso, adesso si alzarono tutti perché ha delle parole meravigliose quella canzone. Ecco, quindi questa parola che sembra così, diciamo, una brutta parola, se noi la pensiamo come aggettivo, ad esempio, un vecchio amico si associa all'idea di un amico leale, fidato, qualcuno che non ci tradirà mai. Una vecchia quercia ad un albero che ha sì degli anni, ma che ancora si erge maestoso, pronta a godersi il sole ma anche a resistere alla tempesta. E potrei andare avanti con tanti altri esempi. Il mio romanzo si annuncia al lettore con uno slogan piuttosto pretenzioso: Villa del Parco, ovvero come sopravvivere alla vecchiaia. Quasi si trattasse di una sorta di manuale su come affrontare questo periodo della vita. Magari potessi avere la ricetta che garantisce una vecchiaia felice. Purtroppo non è così. Tuttavia, grazie alle mie riflessioni su me stessa, i miei comportamenti e stati d'animo, ma anche dall'osservazione degli anziani che ho occasione di incontrare e il ricordo della vecchiaia dei miei genitori, che entra molto in questo libro, ho cercato di dimostrare che grazie al nostro impegno è possibile rendere piacevole, o perlomeno meno sgradevole, questa fetta di vita, senza però sottacere gli inconvenienti e i dispiaceri che essa può comportare, perché accettare la vecchiaia non è sinonimo di una resa, ma di una perseveranza a continuare a vivere nel miglior modo possibile. Il romanzo inoltre spezza una lancia a favore delle case di riposo, che non godono certo di una buona fama ai nostri giorni, identificate spesso come una sorta di lager ove gli anziani attendono solo di morire. Villa del Parco è una residenza che ha le sue regole, dettate dalla necessità di una serena convivenza tra i suoi ospiti, che tutto sommato ci vivono bene. Il romanzo prende avvio dall'entrata della protagonista Margherita nella struttura per accontentare il figlio che sta per partire per il Canada a causa di impegni lavorativi, con la promessa che appena rientrato a Bologna egli tornerà a prenderla per riportarla a casa. Villa del Parco è una casa di riposo che effettivamente si trova a 10 minuti da dove io vivo quando sono a Bologna, da dove vivevo da bambina, come dico anche nel libro, c'è un bellissimo parco, lo dice, io passavo con la mia mamma e mi fermavo con le manine perché mi piaceva, mi sembrava un posto affascinante, no? E la mamma diceva no, non si può entrare, si va ai giardini, quella lì è privata. Non sapevo che fosse una casa di riposo, non lo è stata da subito, eh? È una bella villa che è appartenuta a industriali, però è vicina a casa mia. Allora, dunque, il figlio tornerà a Bologna a prendere e a riportarla a casa. I tristi effetti dell'allontanamento di un anziano dal proprio ambiente, dalle proprie abitudini, sono ben noti. E Margherita, ancora abile e indipendente, per quanto viva sola, con l'unica compagnia di una gattina, fatica ad adattarsi alla nuova situazione, specie quando la data del suo rientro a casa si prolunga ben oltre il previsto. Il figlio passano tanti mesi e non si fa vivo. Nel soggiorno della protagonista a Villa del Parco si alternano momenti tristi e la morte, si incontra anche la morte, purtroppo all'inizio la incontra, la malattia, anche il pettegolezzo, la cattiveria nei confronti di un ospite che viene giudicata subito come una donna altezzosa, una donna che ama stare da parte, no? Distinguersi dagli altri, sbagliando perché poi è il suo segreto. E questi momenti tristi però si alternano a momenti allegri e conviviali, addirittura comici, perché si sa che invecchiando si ritorna tutti un poco bambini. Ma il suo aspetto più positivo sta nel fatto che, pur sempre decisa a voler uscire dalla casa di riposo e in rotta di collisione col figlio, lei diventa molto dura con questo figlio. Cioè, questo mi ha messo da parte, non mi vuole più, e quindi si meraviglia e recrimina, perché è stata una brava madre lei, perché le deve succedere questo, no? Quindi è veramente molto arrabbiata. Però Margherita, passando il tempo, sperimenta il valore dell'amicizia, della solidarietà, e finisce per accettare gli altri senza giudicarli. La vita a Villa del Parco, insomma, diventa per lei un arricchimento, un'occasione di arricchimento spirituale e di una nuova consapevolezza di sé e degli altri, del prossimo. Riuscirà a riprendere la sua vita e le sue abitudini quando, dopo un anno, il figlio finalmente si presenta a Villa del Parco? Coloro che avranno voglia di leggere questo romanzo troveranno la risposta all'interrogativo. Grazie. Vabbè, e c'è molto, vi dicevo, dei miei genitori. È un po' strano, no? Che io abbia messo questa perorazione a favore delle case di riposo, perché ne sento sempre parlare male, anche a Bologna. Ma come la casa di riposo? Tu vuoi andare a una casa di riposo? Ma cosa dici mai? Sei così indipendente. Ecco, questo viene da, e lo voglio dire perché papà lo merita, dal grande esempio dato da mio padre, che purtroppo in vecchiaia era molto cambiato, nel senso che parlava in modo ossessivo, e cioè lo dico anche, ossessivo dei problemi che aveva, no? Delle sue malattie. Appena ti vedeva non potevi chiedere come va, perché ti sciorinava tutto l'elenco dei suoi mali, e questo diventava anche un po' pesante, ma io avevo trovato una soluzione. Chi ha letto il libro lo sa, è molto bella anche quella, molto dolce, ed è vera, ed è vera. Mio papà era così. Però quando siamo rimasti senza mamma e non trovavamo una badante che facesse il nostro caso, purtroppo non è successo, non voglio criminalizzare tutte le badanti, queste signore, ma noi non l'abbiamo trovata, papà ha scelto di andare in una casa di riposo vicino a dove abitava. Lui abitava un po' in un paesetto fuori Bologna, non lontano, perché conosceva anche il proprietario, vedeva la sua casa dalla finestra e diceva: ragazze, a me e mia sorella, così sto tranquillo io, perché ho sempre qualcuno nel caso io stia male, e state tranquille voi, però mi venite a trovare. Ecco, e questo è stato un grande esempio, perché lui ha voluto anche darci serenità, e io penso che è quello che farò con mio figlio, perché di vita ne abbiamo una sola, e non dobbiamo intracciare quella degli altri il meno possibile. Ok, questa è la mia idea. Quindi era un omaggio al mio papà che gli devo, perché veramente questo mi ha insegnato molto, perché ci si scandalizza a volte, no? Dice: come l'hanno messo in una casa di riposo? No, è stato il mio papà. Chissà quante persone avranno detto: guarda, Maria Vittoria e Patrizia hanno messo il papà. E invece è nata proprio dal mio papà questa cosa, no? Ed è un esempio bellissimo, veramente. Bene, allora facciamo la lettura? Facciamo la lettura. Allora, la lettura inizia quando questo Alberto, il figlio di Margherita, le comunica che deve partire. Quella ferale sera deve, in cui arriva. Fa finta di no, è un dovrebbe. Sì, deve, insomma, lui è abbastanza motivato, sì. Lui vuole partire. E lei lo capisce al volo. Ma lei è furba, è ancora molto attiva. Sì, sì. Bene. Un martedì sera, mio figlio Alberto, mio unico figlio, è venuto a trovarmi. Era piuttosto tardi, ma non mi sono meravigliata. Lui è un dirigente d'azienda e raramente finisce di lavorare prima delle 20. Spesso continua a farlo anche da casa. Bel vantaggio che offre il computer oggi, quello di non staccare praticamente mai. Beh, tornando ad Alberto, ho capito subito che non mi avrebbe dato una bella notizia. Per inciso, mai dare notizie sgradevoli di sera. Siete pregati di attendere il mattino, possibilmente dopo una bella dormita, come dice spesso un caro amico che se ne intende. Alberto mi è parso stanco e anche un po' imbarazzato. Io stavo sulle spine, ma ho cercato di non darlo a vedere. Senti, mamma, ha finalmente esordito. Volevo chiederti una cosa. Ho saputo da poco che mi dovrò assentare per un po' di tempo. Un soggiorno all'estero, in Canada, per motivi di lavoro. Non so ancora per quanto, ma sai, sono preoccupato di lasciarti sola, specialmente dopo quanto ti è accaduto anni fa. Alberto si stava riferendo a un incidente che mi è capitato. Piera, la domestica ore, aveva inavvertitamente steso male il tappeto nel soggiorno e io ero inciampata. Fortunatamente non mi ero rotta il femore, ma mi ero procurata una frattura scomposta del malleolo che aveva richiesto un'operazione e una lunga riabilitazione che mi era pesata molto. Vedova da 20 anni, sono sempre stata un tipo piuttosto indipendente e dopo essere accudita in tutto e per tutto mi risultò essere assai sgradevole. Dunque, potevo capire che la preoccupazione di mio figlio non era affatto ingiustificata. Ricordo di aver annuito, esortandolo con gli occhi a proseguire, mentre mi domandavo: e ora dove vuole andare a parare? Ma evidentemente lui non aveva fretta, voleva argomentare le sue conclusioni. Dunque, ha continuato, potresti assumere una badante, ripeto, è solo un fatto temporaneo, credimi. Andiamo avanti. Allora, naturalmente capite che entra in questa casa di riposo e ci sono i primi incontri, no? E anche le prime riflessioni sulla vecchiaia. L'avevamo fatto questo? Sì. Bene. Allora, le prime riflessioni che lei fa, che forse non aveva neanche mai fatto, ma insomma nel momento contingente è ovvio che vengono queste sue riflessioni sulla vecchiaia. Ecco. Non ha senso per me giustificare l'asprezza di certi anziani con gli anni che si portano addosso. Semmai, con l'avanzare dell'età, il carattere peggiora, ma di fondo resta quello che era. Eppure, anche se non si può essere sempre contenti, soprattutto in vecchiaia, un piccolo sforzo andrebbe fatto. Infatti, tutti sono disposti ad avvicinare un bambino, ad accarezzarlo, a parlargli. Ma chi prova piacere a farlo con un vecchio e per di più astioso? E poi noi anziani ci lamentiamo di essere soli, ci sentiamo abbandonati, spesso diventiamo ostili, dimenticando che non è facile per nessuno rispondere gentilmente dopo che ti è arrivato un calcio negli stinchi. Del resto la solitudine, solo per chi è gravemente ammalato o non può uscire di casa, è veramente irrimediabile. Se ancora puoi muoverti con le tue gambe, sei tu che devi andare incontro agli altri, non aspettare che siano loro a fare il primo passo. Il fatto di essere vecchi di per sé non pone in una posizione superiore o privilegiata. Bisogna esigere rispetto, questo sì, ma quello che è dovuto a qualsiasi persona indipendentemente dall'età o dalla posizione sociale. Né mi sembra vero, come tanti pensano, che la vecchiaia sia sinonimo di saggezza, che consenta di parlare a tutti con supponenza, ex cattedra, in nome di un'infallibile capacità di giudizio dettata dall'esperienza. Semmai, se richiesto, si può esprimere un'opinione, un parere, perché, sì, bisogna riconoscerlo, si continua a sbagliare anche da vecchi. E ci sta a essere un po' umili, parola che non piace quasi a nessuno, perché significa aver fatto i conti con le proprie fragilità. Con questo non voglio assolutamente dire che noi anziani dobbiamo arruffianarci il prossimo fingendo quello che non siamo né sentiamo, ma sottolineare come cercare di essere un po' più amabili e tolleranti vada senza dubbio a nostro vantaggio, soprattutto in una società che non sembra proprio apprezzare gli anziani. Non voglio tessere l'elogio della vecchiaia, odio gli sproloqui di coloro che tentano di convincerci che in fondo non è poi così male. Come non ammettere che invece comporta alcuni guai, purtroppo irreversibili? E poi segue la disquisizione su questi guai. Allora, adesso, passiamo. Andiamo alle prime conoscenze. Alle prime conoscenze. Allora, ovviamente Margherita pian piano conosce nuove persone e in particolare diventerà amica di una attrice, no? Che è in questa casa di riposo per una ragione che non svelo, che chi leggerà capirà perché è finita lì, no? Ma un'attrice molto celebre e sarà una grande amica sua, si stabilirà veramente fra loro una grande empatia proprio per circostanze anche del vissuto, anche se apparentemente sono due donne lontanissime, no? Sia per estrazione sociale, carattere, però ci sarà un qualcosa che le lega e le porta a essere amiche. Prego. Ho pensato che potrei trovare a conoscere qualche altro ospite. A chi? E allora mi è venuto in mente che potrei provare con la signora De Dominicis. Clelia l'ha definita altezzosa, una che sta sulle sue. Ma il fatto che abbia due canarini e che abbia accarezzato mesi fa la cagnolina che venne qui mi intriga. Magari non se ne farà niente, ma sono curiosa per natura, una scimmia, secondo la definizione di mia madre. E poi questa mi sembra una sfida. Cercherò di avvicinarla con una scusa. Oggi? Chissà, vediamo che succede. Bene. Dunque, eravamo a... Margherita sa di tutto, non c'è bisogno di altro. Allora. L'ultima riflessione. Sì. Siamo a pagina 163. Dunque, adesso mi sto perdendo. Lo spettacolo 163. Che organizza? Lo spettacolo che organizza qua? No, è il colloquio che ha avuto con... Il colloquio. Allora, per... tirare sul morale, no? A questa amica che è piuttosto depressa, tra l'altro più vecchia di lei, ma è molto giù di morale, non si fa mai vedere. Cosa pensa? Lei pensa di fare uno spettacolo. Lei è un'attrice, gli facciamo uno spettacolo e in questo modo io probabilmente riesco, coinvolgendola, a tirarla su di morale e anche dimostrarle di essere sua amica, perché fa qualcosa per lei, no? Naturalmente per far questo c'è bisogno però della via, del consenso, del durissimo Girardi, questo direttore a casa di riposo che è piuttosto tremendo, si ripresenta diverse volte nel romanzo, tra l'altro con... vietatissimo tenere animali, e vedrete poi cosa combina Margherita, perché lui non vuole animali nella struttura. E quindi adesso qui siamo al momento in cui Margherita e la sua amica si confida, cioè l'amica si confida con Margherita. Ah sì, prima, ecco, sì, quindi sì. Questo è il momento. Infatti dice: ora Margherita sai tutto, non c'è bisogno che aggiunga altro. Ti lascio solo un'ultima riflessione. Hai un figlio, un bravo figlio, che ti ama. Non sei sola. Pensaci bene prima di giudicarlo male. Non escluderlo dalla tua vita, come ho fatto io. Potresti pentirtene fino all'ultimo dei tuoi respiri. E infatti, lei questo consiglio però non è che lo segua molto, fino alla fine. Lei va per la sua strada. La fa pensare, però lei... E naturalmente poi viene questo spettacolo di cui ho arriviamo a quello che ho anticipato sbagliando. Pensa che ti ripensa, credo di avere trovato la soluzione. Allestire un piccolo recital in cui chi lo desidera potrà mostrare le sue doti di attore, di cantante, ballerino, mimo e quant'altro. Chi invece non se la sentirà di salire sul palco per fare spettacolo potrà comunque goderselo da spettatore. Ora che so che cosa fare, è necessario che ne informi la direzione per vedere se è d'accordo. So che non sono nelle simpatie del dottor Girardi, ma non posso fare a meno di ricevere il suo ok. Così mi dirigo nel suo studio. L'esordio non è dei migliori. Buongiorno, signora Bonvicini. Questa volta che cosa vuole? Mi trattengo a stento di rispondergli per le rime, ma sono costretta a mordermi la lingua se voglio raggiungere il mio scopo. Anzi, provo ad arruffianarmelo un poco. Caro dottor Girardi, questa volta nessuna lamentela. Sono venuta per chiederle il permesso di organizzare una piccola recita qui. Il direttore appare sorpreso. Uno spettacolo, dice. Ma questa sarebbe una novità, sarebbe il primo a Villa del Parco. Sembra che quasi gli spiaccia di non averci pensato lui e fa il diffidente. Si spieghi che tipo di spettacolo, chi si prevede debba prendervi parte, perché nel caso lei intendesse avvalersi di artisti professionisti, le dico subito che questo è incompatibile con il nostro budget. Ah, eccolo subito mettere le mani avanti, penso. No, abbiamo il 231. No, non si preoccupi, all'amministrazione non costerà niente. Abbiamo bisogno solo di una pedana, magari quella che utilizzammo in occasione di quel concerto, ricorda? E naturalmente anche del salone, basterà disporre le sedie. Il chiarimento deve avere sortito effetto, Girardi sembra sollevato, tuttavia insiste. Scusi, ma chi si occuperà dell'allestimento? Immagino che sia sua intenzione invitare anche qualche parente dei nostri ospiti e ci terrei che fosse uno spettacolo decoroso. Villa del Parco è una residenza di buon livello e non vorrei fare brutte figure. Lei ha l'esperienza necessaria? Girardi è convinto di avermi messo in difficoltà, ma si sbaglia di grosso. Ha ragione, ma c'è chi potrà occuparsene in modo egregio. Il direttore sembra diffidente. E chi? Di grazia. Chiede. Ma la nostra attrice Regina De Dominicis ha calcato i palcoscenici di mezzo mondo. Dubita che ci riuscirà? Esclamo, fingendomi scandalizzata. Naturalmente è ben contento Gerardi che chiamerà anche i giornalisti, il resto del Carlino, giornale di Bologna, per commemorare il momento. Ecco, poi ci sta però che a volte anche con amiche care ci sia un momento di incomprensione e bisticcio, che secondo me ci deve essere, eh? Ossia secondo me due amiche che non hanno mai un bisticcio educato, ossia non si mettono mai in gioco con le loro idee, ma una segue pedissequamente l'altra, per cede, in poche parole, non è amicizia, ci vuole, cioè, esprimere il proprio parere per me è fondamentale. La coscienza non la trovo giusta, perché non è sincera, si è passivi. Prego. Riflettendo, questo è stato il mio primo bisticcio con la mia amica, ma in amicizia, ancora di più quando è vera, un battibecco ci sta. Non sempre si può essere dello stesso parere e non penso che nasconderlo sia un bene. È necessario spiegarsi, certo sarebbe meglio cercare di non offendere e moderare il tono e il linguaggio per non giungere a rotture irreparabili. A volte ci comportiamo onestamente, ma può sempre accadere di non riuscire a dare l'impressione giusta, di essere fraintesi. Tuttavia dobbiamo metterci in discussione, accettare le critiche, perché anche se non sono piacevoli, rappresentano un'esperienza che può farci crescere e si può maturare a qualunque età. Anche se Clelia è stata sgarbata e mi ha ferita, so che non ha smesso di volermi bene. Per questo ho deciso di perdonarla. Mi sembra sia la migliore dimostrazione che posso offrirle di quanto anche lei conti per me. Certo, Clelia è una donna molto semplice, molto buona, che ama cucire, ama fare l'uncinetto, è sempre occupata con l'uncinetto, molto semplice, buona, molto diretta però, molto non è colta, non è, però le vuole bene, quindi anche accettare quello che lei le dice, capire che dietro ci sta il volere che lei stia bene è molto importante. Non è il caso che questa amicizia si interrompa, ma anzi tenersela stretta e da conto, come tutte le buone amicizie, perché sono tanto rare. tanto, e lo dico con dai miei 75 anni, le vere amicizie sono rare. È molto bello che lei abbia scelto di legare queste due donne da un sentimento che di solito siamo portati a identificare con la giovinezza, con degli anni magari d'oro che sono quelli della scuola, del liceo, per cui c'è un po' la tendenza a pensare e a dire ma gli amici che ti sei fatto quando eri un ragazzo sono quelli che poi ti rimangono veramente stretti e ti rimangono dentro, e mentre proprio nell'ottica di un continuo è un cammino, la vita, di una crescita, e incontri altre, darsi delle occasioni significative anche a una certa età, ma certo quando però ci sono acchiapparle, ecco, sì, queste non lasciarcele scappare queste occasioni, anche decidere di mettersi in gioco, sì, certo, può essere certo il timore, la paura, e comunque la sincerità, guardate, paga sempre, magari ti fa un momento, ti fa rimanere anche un attimo male, ma la sincerità secondo me paga sempre paura nella vita, sempre. No, ma io ne sono di questo, sono convintissima. Arriva Alberto. Ecco, poi naturalmente passa il Natale, perché beh, sapete, è lunga questo ritorno di Alberto, si fa desiderare, neanche al telefono non lo sente, sente la nuora. Poi finalmente arriva, passa il Natale e lei ha già fatto anche le valigie, perché casa mia è 10 minuti, in effetti via Mazzini è dove sto io, lei è già pronta ad andare, ha già fatto le valigie, cioè così quando mi telefona gli dico guarda sono già a via Mazzini a casa, voglio vedere come rimane, e adesso il figlio arriva. Si era fatto tardi e mio figlio di sicuro era già nell'ingresso che mi aspettava. Dopo aver messo Pussy nel trasportino mi sono vestita in fretta senza neanche guardarmi allo specchio. Prima di chiudermi la porta alle spalle, ho avuto un flashback. Tra i tanti momenti che avevo vissuto qui, uno soprattutto si è affacciato alla mia mente, oscurando tutti gli altri. Quello in cui Regina si era confidata con me. Proprio grazie al racconto della sua tragica vicenda, era nata la nostra amicizia. Avevo capito subito che si trattava di un sentimento forte, speciale, che ci avrebbe legato per sempre, perché ognuna di noi era consapevole di dovere all'altra una recuperata pace inferiore. Avevamo trascorso dei bellissimi momenti insieme, ma prima o poi, a questo mondo, tutto è destinato a finire, anche se ne avrei serbato il ricordo per sempre. Una volta scesa, ho vigliaccamente evitato di attraversare il salone, perché non mi sentivo pronta a congedarmi dai miei amici, e mi sono avviata all'ingresso a testa bassa, per costringermi a non guardarmi attorno. Come avevo supposto, Alberto era già lì. Ci sono ancora 3 pagine, e in non cui si però possono tutto il mondo anticipare. Tutto il mondo si capovolge, quindi su questo silenzio. Però felice, Margherita. Tutti alla fine sono felici tutti, certo. Questo lo diciamo. Io non dico niente. Io dico che sono però tutti felici, perché voglio tutti felici. Lei, in quanto autrice, ha diritto di dire io non dico. E io invece dico che invece voglio i miei personaggi stavolta felici, e in effetti lo sono. Se no non avrei detto. Però si scopre. Sì, diverse vie per la felicità. Ma a volte la felicità passa anche dietro. Nell'inaspettato. Sì, come no. Quindi lei, anzi, lei è assaporata ancora di più quando viene dopo certe difficoltà. Lei che non ha ancora finito. Lei l'ha già letto. E lei non faccia la spia. No, ma lei lo sa, dai. No. Lei non faccia la spia. E te piuttosto affrettati a leggerlo. Comunque, lei che non legge tanto, però, vi dico questo perché veramente è la cosa che mi fa più piacere di una recensione di una persona famosa. Pensa, ve lo giuro, lei apprezza talmente tanto i miei modi di dire, perché io, come mio papà, da buona bolognese, sono piena di modi di dire, cioè non parlo per frasi fatte, sono molto spontanea. lei se le annota, perché le giuro, le piacciono così tanto. Guardate che è bellissimo, una persona che scrive un libro, un romanzo, e si sente dire quell'espressione mi piaceva talmente che me la sono annotata, io credo che sia il complimento più bello che per ora mi è stato fatto, posso dirlo? Davvero. Tutto qua. Bene. Bene. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a lei. Ho visto che mi ha anche fatto delle foto, mi piacerebbe sì. vederle quando certo, potrò. Volentieri. Va bene. Bello. Bene. Bene, poi speriamo in un'altra occasione, vediamo il prossimo romanzo. Sì. Ha già in serbo un nuovo romanzo? Sì, sta già scrivendo qualcosa? Io ho già iniziato, ma proprio sono agli albori, come si suol dire, un romanzo che coinvolge l'Alto Adige, e in particolare Chiusa, dico solo questo, e che si svolge nel Settecento. E c'è un personaggio di mezzo che credo che possa interessare molto. Bene. Però quindi è storico e anche un po' gotico, un po' a fosche tinte. Perché si svolge a Madrid con l'Inquisizione di mezzo. Sarà un po' un drammone quello lì. Sì, sì, se mi viene bene l'argomento è molto bello. E non c'è nulla, anche perché tutto poi quello che c'è di storia, e ho letto in questi mesi tantissimo tutti i miei appunti, è praticamente tutto in spagnolo, quindi io penso che anche qui molti non abbiano letto tutti conosciuto. Questi saggi, perché sono in lingua spagnola, no? Quindi vedremo come va. Perché penso che possa interessare davvero questa volta l'Alto Adige, perché... Bene. Grazie. Bene.